Continuiamo e parliamo di cinema con visionari. Per quanto riguarda le informazioni sulla trasmissione di quest'oggi, le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dovremo sentire in corso di questa puntata Sabina Guzzanti, regista del film La Trattativa, in uscita in sala oggi 2 ottobre, Guido Lombardi, regista del film Take Five, anche questo in uscita oggi, Cinzia Masotina dello Scrittoio sulla distribuzione del film Goltzius and the Pelican Company, anche questo in uscita oggi, di Peter Greenaway, Giacomo Ravesi, coordinatore artistico della 7ª edizione di Visioni Fuori Raccordo, Livio Jacob, presidente della 33ª edizione di delle giornate del cinema muto, e poi Iris Martin Peralta di Exit Media sulla distribuzione del film L'Estudiante, in uscita in sala il 6 ottobre, Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese, e poi Patrizia Salvatori sulla rassegna di Tutto un Pop, appunti di cinema contemporaneo doc. Potete seguirci in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer sul sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. Siamo al primo collegamento della puntata di quest'oggi per parlare della 7ª edizione di Visioni Fuori Raccordo, che sarà qui a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, da oggi fino al 5 ottobre. Ne parliamo con Giacomo Ravesi, che ne è coordinatore artistico. Giacomo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, raccontaci un po' intanto quali sono le caratteristiche di Visioni Fuori Raccordo. Sì, Visioni Fuori Raccordo è un festival che si dedica alle periferie, avendo come bacino di film il cinema documentario. Le caratteristiche anche dell'edizione, visto che siamo alla 7ª edizione di quest'anno, quali sono le proposte di questa edizione? Sì, guarda, dopo 7 edizioni lavorare sulla periferia può diventare un luogo chiuso, un punto di non ritorno. Invece ci sembra che proprio anche le evoluzioni della società contemporanea hanno dimostrato quanto la periferia possa aprirsi a territori completamente diversi. Per riassumere un po', vorrei partire proprio dall'immagine, da un'immagine che è quella anche della locandina della nostra edizione, che è realizzata da uno street artist che si chiama Solo, ed è un uomo ragno con un pugno chiuso, alzato, e in mano una macchina da presa. Ecco, ci piaceva questo cortocircuito, di immaginari, dove anche la periferia è rappresentata ancora come un luogo di lotta, di resistenza politica, sociale, esistenziale, eccetera, ma nello stesso tempo è anche produttore di una nuova creatività che si fonda soprattutto sulle culture, appunto, popolari anche, ma anche sulle culture giovanili, come l'arte, appunto, la street art, in questo caso, può interpretare e rilanciare. Quante sono le opere che presenterete? Sì, guarda, allora, noi ci fondiamo su una selezione di documentari in concorso, che sono 12, che appunto, anche alla luce di questa idea partita da questa immagine, non raccontano soltanto la periferia in senso urbano, che comunque ritratta in film come Ritratti abusivi o Buongiorno Taranto, ma anche, questa è stata una caratteristica che abbiamo scoperto nel corso degli anni, la dimensione, per esempio, antropologica o sociologica del paese Italia, no? Quindi i piccoli paesi che hanno un potere testimoniale anche culturale enorme, che vanno sparendo, come in film come L'uomo sulla luna e Brasimone. Altri elementi fondamentali che ritroviamo nei film in concorso sono la condizione lavorativa, in film come Dal profondo ed Atlantis, la rivendicazione della violazione di diritti civili come in Lucciole per lanterne, e poi da un punto di vista anche stilistico, che è anche questa una caratteristica molto eterogenea nei film presenti, sono quelli, per esempio, i ritratti umani in film come Rustam, Casanova, Almas en Fuego o Fuoco amico, e nell'altro, in ultimo, diciamo, quei ritratti di universi, diciamo, ai margini o poco noti, come è il caso per esempio dello spettacolo viaggiante nella Bella Virginia al bagno, o addirittura ancora più poco conosciuto, i processi della Tanato estetica in un film come Inseguire il vento. Senti, i riferimenti per quanto riguarda, allora intanto ti chiedo come è organizzata, come sono organizzate le giornate, per cui dici una giornata tipo ad esempio quella di oggi, per quanto riguarda gli orari delle proiezioni. Sì, diciamo dal pomeriggio, diciamo, alla tarda serata. Oggi per esempio iniziamo alle 6 con appunto due film in concorso, e poi abbiamo quasi sempre nelle quattro giornate degli eventi fuori concorso. Li accenno soltanto perché sono comunque anche quelli un po' di richiamo. Questa sera alle 22 Socrates, uno di noi, che è il film documentario dedicato al calciatore realizzato da Mimmo Calopresti. Venerdì 3 ottobre un evento speciale fuori programma di grande richiamo sicuramente, perché è l'anteprima romana di Io sto con la sposa, un documentario di cui si è molto parlato anche come esperienza civile, era un film che era a Venezia quest'anno. Sabato una prospettiva su due registi che noi abbiamo seguito nel corso delle edizioni, che sono Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, di cui proietteremo però, dopo il grande successo delle Cose belle, che aveva vinto anche da noi una menzione lo scorso anno, due loro film degli inizi degli anni 2000, come Il mio nome è Nico Cirasola e il film di Mario. E poi domenica, chiudo così, alle 4 facciamo un'attenzione al sociale, perché sarà tutta dedicata alle occupazioni abitative a Roma. Saremo due documentari che sono De Gasio, Sibarrica e Casa Nostra, e saranno presenti, oltre ai registi protagonisti, anche Sandro Medici e Massimo Pasquini, che è responsabile dell'Unione Inquilini di Roma. Aggiungo che Io sto con la sposa, il documentario, uscirà giovedì prossimo 9 ottobre in sala. Abbiamo sentito prima dell'estate uno dei registi, credo che probabilmente li risentiremo in occasione proprio dell'uscita in sala, quindi giovedì prossimo. E a questo punto, Giacomo, ti chiedo i riferimenti internet per la programmazione. Sì, è www.fuoriraccordo.it, anche su Facebook e Twitter, chiaramente. Benissimo, allora un abbraccio, a risentirci presto. Grazie tante. Chiaramente, okay, grazie. Chiaramente poi giratemi i contatti dei vari ospiti, dei lavori selezionati che piano piano sentiremo nel corso delle trasmissioni. Benissimo, perfetto, grazie a voi. A presto, ciao. Ciao, ciao. Giacomo Ravesi, coordinatore artistico della 7ª edizione di Visioni Fuori Raccordo, Nuovo Cinema Aquila qui a Roma da oggi fino al 5 ottobre. Bene, dopo Visioni Fuori Raccordo cominciamo con le opere in uscita in sala. Questo film uscirà lunedì prossimo 6 ottobre, ne parliamo con Iris Martin Peralta di Exit Media, che distribuisce il film. Stiamo parlando lo studente. Ci sei, Iris? Sì, eccoci, buon pomeriggio a tutti. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, un piacere essere con voi a parlare insomma di questo film. Allora, una menzione speciale, un premio speciale della giuria al Festival di Locarno, un film argentino importante, parlacene un po', Iris. Sì, infatti, vabbè, è L'estudiante e lo studente, è l'opera prima di un astro nascente del nuovo cinema argentino, che Santiago Mitre, che magari alcuni avranno già sentito parlare perché è sceneggiatore di un non regista, questo sì, molto noto argentino, che è Pablo Trapero. E lui, da sceneggiatore, Santiago Mitre, è stato un bel po' di anni lavorando appunto alla sceneggiatura di L'estudiante, finalmente, insomma, con uno stile di produzione molto indipendente, è riuscito a mettere insieme questa opera, insomma, che sarebbe appunto il film, riscontrando un successo che lui stesso dichiara non aver sospettato né minimamente, perché non soltanto il film ha ottenuto il gran premio della giuria a Locarno, insomma un riferimento internazionale a livello del cinema indipendente come il Festival di Locarno, ma anche per esempio Alba Fissi al Festival del Cinema Indipendente di Buenos Aires ha ottenuto anche questa menzione speciale della giuria anche lì. È un film che è stato poi presentato a Toronto, insomma che ha fatto un circuito dei grandi festival e che in Italia non si era ancora mai visto, quindi insomma stiamo portando anche agli spettatori italiani uno di quei film, uno di quei gioielli che è difficile insomma far circuitare sul territorio italiano. Sì. Iris, come diamo qualche breve indicazione di trama per chi ci ascolta? Sì, La Studiente è una storia dove seguiamo un personaggio che arriva a Buenos Aires dalla provincia per studiare all'università. Lui dopo un po' di tempo che si fa un po' di amici, insomma lì, conosce a Paola che è una professoressa, un'assistente di professore che è molto impegnata, una militante nella politica universitaria. Lui attraverso di lei inizierà a insomma a farsi coinvolgere nell'attivismo politico dentro dell'università e scoprirà insomma che insomma c'è un lema nella politica, se la domanda è il fine giustifica i mezzi e insomma lui piano piano si lascerà coinvolgere su questa politica universitaria scatenando insomma vabbè molto non raccontiamo perché poi sennò certo. Si perde il filo del film, però questa è un po' la linea, no? Insomma una riflessione molto molto accurata su quello che può rappresentare oggigiorno l'attivismo politico, no? Come va affrontato, che senso ha, quali sono le dinamiche del potere, nel senso sia nelle piccole diciamo ecosistemi come può essere il contesto universitario, come i grandi sistemi, come ci sta manipolando anche la politica, no? In un certo senso. Mm-hmm. Senti Iris, sai qualcosa sulla nascita, come che c'è, cosa c'è alla base della nascita di questo film, che lavoro ha fatto il regista? Beh, il cinema argentino è un cinema in genere molto narrativo, ma anche con una gran cura del senso estetico. Allora sì. Stiamo parlando di un film che nasce appunto di una storia solida e molto costruita, appunto come dicevo prima Santiago Mitre è prima di regista sceneggiatore, quindi stiamo di fronte a insomma quello che per esempio quelli critici italiani che hanno già visto il film hanno tirato fuori, chiaramente che magari questo gran premio della giuria a Locarno andava chiaramente giustamente attribuito per una sceneggiatura che diciamo non fa una piega, no? un film proprio che nasce dal racconto, che nasce proprio dalla narrazione. Sì, da una parte sì. Quella che dicevo appunto delle strutture della politica universitaria e dall'altra dello sviluppo del personaggio, no? Sì. Quando per esempio il film fu presentato al MoMA a New York, Adrien Mancia che presentava il film ha fatto per esempio questo accenno sul building roman, no? Su un film di formazione politica, un film che racconta proprio il percorso di questa formazione politica. Quindi questi io direi che sono i due spunti alla base della nascita di questo film. Sì. Iris, diciamo anche, spendiamo due parole sull'attività di Exit Media e sulla vostra scelta di distribuire questo titolo. Sì, Exit Media è appunto una società di distribuzione che nasce in realtà come piattaforma culturale, perché noi organizziamo un evento che magari alcuni ascoltatori conoscono, che è il Festival del Cinema Spagnolo, al Farnese, si fa insomma la primavera a maggio, e insomma dallo spunto del festival c'era partito, visto che il festival circuita non si fa soltanto a Roma ma circuita in diverse città italiane, c'era insomma venuto un po' la spinta di puntare su alcuni film e farli circuitare appunto in regolare distribuzione. Il primo film che abbiamo distribuito era un film tratto da una graphic novel che si chiama Arrugas, Rughe, che forse anche con la Radio Onda Rossa ne avevamo già parlato suo momento. E la seconda scelta è stata un film, diciamo un film militante, un film di quelli che secondo noi vanno visti, vanno ragionati, no? C'è un film che va, un film che richiede, viene richiesto il tempo, no? di essere guardato, quindi c'era molto molto piaciuto come sotto il cinema, infine è un strumento per suscitare riflessione su quello che sta succedendo nei nostri giorni. Questo era un po' il fatto che ci ha spinto a, insomma, a portare questo film e a farlo circuitare. Infatti, a parte a Roma, uscirà in altre 5 città italiane e poi tra cui Milano, Firenze, Pisa, Trieste, e poi insomma è un work in progress, quindi si aspetta che se ne aggiungano tante altre. Benissimo. Iris, io allora diamo anche i riferimenti per quanto riguarda Exit Media su internet, e poi ricordiamo Le Studiante in uscita in sala da lunedì 6 ottobre qui in Italia. Sì, il film, scusami, a Roma si potrà vedere al Nuovo Cinema Aquila nelle sessioni delle 9:30 in genere. Tutti gli orari si trovano sul sito exitmedia.org. E lì insomma qualsiasi anche dubbi, domande, siamo anche insomma sulle reti sociali per rispondere a qualsiasi dubbio e niente, per veramente confrontarci sul contenuto del film, appunto. Allora Iris, un abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a tutti. Ciao anche a te. Ciao ciao. Iris Martin Peralta di Exit Media sulla distribuzione del film Le Studiante, lo studente, in uscita in sala lunedì 6 ottobre. E ritroviamo Andrea Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso per parlare con lui delle novità del mese. Paco, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, sta diventando un appuntamento cadenzato, quasi mensile, con le vostre novità. Dici cosa ci avete riservato per questo mese. Sì, ovviamente ci fa sempre molto piacere partecipare alla trasmissione, quindi benvenga che diventi un appuntamento quasi mensile. E di cose da dire, di proposte ne abbiamo sempre ogni mese, quindi ci fa sempre molto piacere. Questo mese abbiamo lanciato, come per settembre, appunto per mese di settembre, inizio ottobre, abbiamo lanciato due mediometraggi, uno ambientato in Giappone, spero di nominarlo nella maniera precisa, è Fukushima no Daimyo, che è un mediometraggio molto molto molto interessante, anche perché il regista italiano Alessandro Tesei è andato proprio nelle terre circostanti, quello che è stata appunto l'emergenza nucleare di Fukushima che ben conosciamo, a incontrare questo contadino giapponese che è rimasto nonostante quello che è successo, è tornato dopo un anno sulle proprie terre e ha ricominciato a coltivarle. Quindi non devo spiegare qual è l'importanza anche dal punto di vista documentaristico di un lavoro di questo tipo. Si tratta di un mediometraggio di circa 20 minuti e segue appunto attraverso la narrazione del protagonista, fa anche una mappatura di quello che è la situazione odierna in quei territori. Sì. Situazione odierna che chiaramente immaginerete bene, le informazioni che possono arrivare, che concretamente arrivano qui in Italia su quello che oggi il territorio circostante, appunto la zona contaminata, e sono molto poche le informazioni, per cui ci tenevamo tantissimo ad avere questo lavoro e il regista ce l'ha concesso e ci fa molto piacere. Il secondo lavoro invece è un po' un esperimento anche per noi, perché non abbiamo mai prima d'ora distribuito lavori di questo tipo. È un ibrido, è un reportage fotografico innanzitutto, ambientato in un paesino dell'Ucraina, quindi tocchiamo anche questa volta un tema, come ben sapete, molto caldo. E è un reportage fotografico, come posso dire, innestato su un audio documentario, quindi raccolte di testimonianze audio di questi 108 personaggi appunto che abitano in questo piccolo villaggio sulla frontiera ucraina, e ci interessava da questo punto di vista iniziare ad aprirci anche ad altri formati più sperimentali, per cui questa proposta è arrivata al momento migliore, diciamo, ecco. Quindi anche da questo punto di vista l'interesse è stato sicuramente legato al fatto di parlare e raccontare un territorio locale che in questi mesi, come ben sappiamo, è all'ordine del giorno su tutte le cronache mondiali per quello che sta succedendo, anche a livello appunto del conflitto che si è sviluppato negli ultimi mesi. Sì. E come sempre ci piace dare rilevanza alle testimonianze delle persone che vivono i territori, per cui questa proposta ci ha fatto molto piacere e siamo ben contenti di averla inserita nel catalogo. Paco, per chi ci ascolta, le caratteristiche di distribuzione dal basso, e anche visto che stavi parlando dell'apertura verso nuovi formati, ecco, su cosa state puntando in questo momento? Sì, allora, distribuzione dal basso è appunto un portale online che con le forze che cerca di mettere in campo mese dopo mese, da adesso un anno e mezzo che siamo attivi, quindi siamo molto contenti della stabilità che il progetto sta iniziando ad avere. È un portale che va pensato e misurato come un sostegno alla diffusione di opere indipendenti. Siamo partiti con la distribuzione di documentari indipendenti, non per scelta ma per contingenza, nel senso che noi stessi siamo documentaristi, per cui il primo step è arrivato fondamentalmente su quel filone lì. Adesso l'interesse nostro è nei prossimi mesi, e avremo delle importantissime novità da mostrare da qui a Natale, e ci apriremo ad altri formati, non solo al formato per esempio della diffusione musicale, che già sperimentalmente è aperto da alcuni mesi, ma anche per esempio editoria e progetti editoriali, quindi altre formule di narrazione, sempre comunque attraverso il filo conduttore che noi riteniamo il pilastro della nostra scelta relazionale, cioè dare la priorità assoluta a progetti indipendenti, registi emergenti, collettivi di creativi e artistici, che in qualche maniera cercare di piano piano sedimentare e costruire proprio un vero network nazionale di freelance, di operatori del settore, di questi settori culturali, che fanno anche tutta una serie di scelte di natura etica, se vogliamo. Una di queste che è un basamento, un pilastro della nostra scelta redazionale, è la scelta del Creative Commons, quindi la diffusione di opere secondo certi canoni e secondo certe scelte che sono anche di natura economica, se vogliamo, comunque meticciano anche poi le scelte di natura economica di un progetto. Sì. Paco, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Volentierissimo, ne avremo alcune molto molto importanti. Bene. Quindi ci sentiremo sicuramente. Bene. Prossimamente. Con piacere. Okay. A presto. Ciao, a ciao. Presto, grazie a voi. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sulle novità del mese. È con noi Cinzia Masotina dello scrittoio sulla distribuzione del film Goltzius and the Pelican Company, in uscita in sala oggi giovedì 2 ottobre. Cinzia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao Federico. Sì, beh, aggiungo subito che questa operazione che qualcuno ha definito kamikaze, e poi spiegherò perché, oltre allo scrittorio c'è anche Mare Mosso, sì, che è un'altra realtà distributiva e promozionale milanese. Sì, il film ha iniziato la sua vita il 30 settembre al CRT di Milano, a teatro, e poi proseguirà dal 7 al 12, al 10 al Teatro Bellini di Napoli. Farà una puntata alle giornate d'essai del cinema a Mantova, l'8, e con una serata dedicata alla città di Mantova, e poi perché gli esercenti dei migliori cinema di qualità possano vedere appunto il film, e poi a Roma dal 12 novembre fino al 16 novembre. Ho detto prima avventura kamikaze perché perché è iniziato tutto con l'amore profondo per un certo cinema, per Peter Greenaway. E dopo che la folgorazione al Festival di Roma iniziava a passare del tempo e nessuno aveva deciso di distribuire l'ultimo film di Greenaway, abbiamo deciso che insomma qualcuno lo doveva fare e abbiamo deciso di farlo noi in maniera un po' eccentrica. D'altronde come è il regista, l'abbiamo visto 2 anni fa l'edizione del 2012 del Festival del Cinema di Roma, un autore sicuramente molto colto che poi mescola varie discipline artistiche a partire dal teatro, ma anche arti figurative come soprattutto la pittura e la fotografia. Ci sono anche artisti come Pippo Del Bono presenti nel cast. Come lo descriveresti, come lo racconteresti a chi ci ascolta, anche se non è facilissimo? Allora, io direi che Greenaway, come anche scritto insomma gente molto più autorevole di me, è sempre proiettato sul futuro. Siamo di fronte a un'opera che qualcuno può definire teatrale, forse anche perché abbiamo deciso di creare una distribuzione che ibridava le modalità di fruizione, quindi teatro, cinema, eccetera. Invece ecco, secondo me qua siamo di fronte, come al solito, a un Greenaway che riesce a mescolare le diverse arti senza mai nessun atteggiamento professorale. Quindi prima cosa, che nessuno sia spaventato, perché quel film parla a tutti, parla a chi vuole un racconto, una storia, anche se vogliamo pruriginosa ed intrigante, chi ama le arti figurative, chi vede nelle nuove tecnologie la possibilità di un linguaggio e non soltanto di uno stile. Quindi direi che non c'è un solo palato che può gustare questo film in particolare di Peter Greenaway. Indubbiamente Peter ci ha abituato a tante cose, a installazioni particolarissime, alla sua anche attività di pittore. È sicuramente qualcuno che ha capito che il cinema è un'arte giovane e che quindi ha bisogno del sostegno di tutte le altre arti per arrivare ai vari pubblici. Questo direi al pubblico, che spero andrà numeroso. Sì. Dicevi, mentre parlavi, mi veniva in mente anche l'importanza dell'architettura e comunque una cinematografia estremamente elegante. Possiamo dare delle vuoi dare delle piccole indicazioni di trama per chi è all'ascolto? Certo, allora qua si tratta di lo spunto, il pretesto è reale, nel senso qua parliamo di questo incisore, Goltzius appunto, vissuto intorno alla metà del 500, coevo insomma di Shakespeare, che fondamentalmente vuole fare delle incisioni tratte dall'Antico Testamento e quindi cerca nel Margravio di Alsazia il, chiamiamolo, il mecenate, ecco, è in cerca di denaro per queste incisioni. Cosa accade? Accade che il Margravio di Alsazia, con moltissimi punti di domanda, perché insomma le incisioni, i bozzetti che Goltzius gli propone sono, diciamo così, osé, anche se questa magari non è la definizione utilizzata a quei tempi, e allora chiede che la compagnia del Pellicano, The Pelican Company appunto, metta in scena per lui questi i temi tratti dal Vecchio Testamento che poi dovranno diventare incisioni. Come spesso accade, gli editori erano anche teatranti, avevano compagnie, come ben sappiamo, no? Come Shakespeare appunto ci aiuta in questo. E inizia questa messa in scena che però ad un certo punto diventa vita, diventa realtà, ed ecco che allora il Margravio di Alsazia, la sua corte, gli attori della compagnia stessa iniziano un percorso di approfondimento di quelli che sono i grandi temi biblici, che non a caso sono anche i grandi tabù della sessualità e non solo, e qua mi fermo e arriva è un carosello in cui però ci tengo a dire il proseguio della storia immediatamente si fa immagine, questa discesa agli inferi, che a volte è anche una discesa dentro se stessi, diventa anche la mutazione incredibile sotto i nostri occhi di una scenografia particolarissima che tra l'altro Peter ha costruito dentro la vecchia stazione di Zagabria, tra barocco, postmodernità e archeologia industriale. Sì, sì, sì. Senti Cinzia, per quanto riguarda questa distribuzione itinerante, vogliamo dare dei riferimenti internet per chi volesse avere maggiori informazioni? Assolutamente. Allora, innanzitutto tutti i teatri in questa prima fase, che appunto ospiteranno come uno spettacolo in cartellone questo film di Peter Greenaway, hanno distribuito, hanno ovviamente le proprie pagine di riferimento, quindi il Teatro CRT dell'Arte di Milano, così come il Teatro Bellini di Napoli e il Teatro Argentina di Roma. Altrimenti per il pubblico possono accedere o alla pagina Facebook Gold Sussan Pelican Company, oppure alla nostra, al nostro sito http://cinecult.scrittoio.com. Aggiungo che sarà indispensabile avere degli schermi di qualità, vista l'estrema cura, ma anche la ricchezza di dettagli. A volte è un cinema anche sovraccarico, quello di Greenaway, per cui vale la pena sicuramente di vederlo nelle condizioni migliori. Questo sicuramente. Ci tengo anche, perché spesso si parla appunto dell'architettura, della visionarità, del lavoro su immagini, pittura, nuove tecnologie, ma ricordiamo che in Greenaway è fondamentale la musica. Sì. Grandi sono le sue collaborazioni, come sappiamo, e da un po' di anni lui si è sposato a questi italianissimi e piemontesi architorti che hanno appunto composto le musiche per il film, non solo, ma addirittura li troviamo all'interno come musicisti, quindi in maniera diegetica, all'interno della storia stessa. Un po' irriconoscibili, perché ovviamente con costumi barocchi, però addirittura qua davvero siamo andati oltre lo schermo. Abbiamo i musicisti che hanno composto la colonna sonora, che suonano all'interno del film, in questa corte immaginaria e immaginifica che è appunto quella dell'Alsazia. Cinzia, ci sentiamo per le prossime novità, t'abbraccio. Anch'io, e grazie a tutti, andate a vedere Gold Sussan, mi raccomando. Ciao. Ciao. Cinzia Masotina dello Scrittoio sulla distribuzione del film Gold Sussan and the Pelican Company. Patrizia Salvatori, ben ritrovata. Grazie anche a voi, buon pomeriggio, anche a te Federico. Ci ritroviamo per parlare di una rassegna che ha preso l'avvio ieri, di Tutto un Pop, appunti di cinema contemporaneo doc al Cineclub Alphaville qui a Roma, zona Pigneto. Di cosa si tratta, Patrizia? Innanzitutto volevo dire che la Milanina il 10 settembre, e poi ci siamo messi lacrimenti a lavorare nella piccola saletta di Alphaville, adesso ha un minimo di aspetto innovativo e nuovo, e mi farebbe piacere sapere dagli spettatori che cosa ne pensano, soprattutto perché è un aspetto un po', come dire, a prima vista anche rivoluzionario, quindi è positivo se magari verranno a trovarci. Che cosa di Tutto un Pop? Di Tutto un Pop è una rassegna che nasce dal fatto che quest'estate alla Mini Arena non ero riuscita a, come dire, ad inserire alcuni film a cui tenevo particolarmente durante appunto quella rassegna, quella Mini Arena, che ne ha avuti tanti, ma questi no. Non ho fatto nient'altro che tentare di mettere insieme tutto quel cinema che a noi ad Alfa vi piace tanto, e che appunto è un cinema anche contemporaneo, ma di grandissima autorialità, di grande livello e anche di grande divertimento in alcuni casi. Quindi abbiamo inserito, per esempio ieri abbiamo già visto Still Life di Uberto Pasolini, poverino Pier Paolo, ogni tanto, di Uberto Pasolini, che è un film che ci tenevamo molto appunto a guardare con attenzione, veramente un gioiello. Ma passiamo anche per esempio da storie d'amore indiane, ma non bollywoodiane, come Lunchbox, al film francese, a quei film francesi per eccellenza che ci piacciono tanto perché sono commedie, come per esempio Tutto sua madre, che c'è venerdì, al film che l'anno scorso al Festival di Venezia in qualche modo ci ha fatto sognare una Scarlett Johansson che soltanto si sentiva, quindi anche un sistema, come dire, davvero da terzo millennio nel film Terry Jones, abbiamo commedie come Supercondriaco, abbiamo sempre storie un pochino particolari come Case of You, abbiamo il cinema del centenario che saltò dalla finestra e scomparve, che è un cinema particolare e che in questo momento ci sembra, insomma, cominci a dare prova di sé in maniera grande, come è stato grande nel suo passato. Abbiamo il contestatissimo Spring Breakers di Corinne, che è un film che, diciamo, ha diviso la critica a metà tra chi ha pensato bene di considerarlo un film dove si vedono soltanto ragazzi e ragazze sporcazione, e chi invece ha fatto da sponda a questo voyeurismo, e chi invece ha trovato Spring Breakers una riflessione serissima sul momento contemporaneo di una certa fascia d'età tra l'adolescenza e la giovinezza. Non poteva mancare ovviamente il film di Lars von Trier, Nymphomaniac volume 1, a cui spero presto seguirà 2, e soprattutto io ci tengo molto a questa cosa, al tocco del peccato, a queste 4 cinesi che in qualche modo raccontano un'altra Cina, oppure questa Cina con 4 temperamenti diversi. Sono, diciamo, tutte storie contemporanee che ci faceva piacere ospitare per aprire, diciamo, una novità, seppure novità ovviamente di sé, all'interno di una nuova soletta del cinema. Patrizia, come è organizzata la rassegna? C'è un film a serata e poi chiaramente ti chiedo anche i riferimenti internet per chi volesse avere maggiori dettagli sulla programmazione. Federico, la rassegna, come sempre, è organizzata, quindi la ripresa autunnale del Cineclub Alfaville, una ripresa, diciamo, in sintonia con le sue attività da 13 anni a questa parte, e quindi è una ripresa che prevede ogni sera un film alle ore 21, spesso preceduta corti, in questo caso anche corti contemporanei, che vengono scelti appunto tra il nostro materiale lì in saletta. La proiezione, abbiamo detto, alle 21, si entra con la tessera e la sottoscrizione, quindi bisogna associarsi al Cineclub Alfaville per partecipare, e naturalmente siamo in via del Pigneto 283, il riferimento internet è www.cineclubalfaville.it. Noi vi aspettiamo, vi ricordo che anche che lunedì prossimo inizia il nuovo corso di storia del cinema, quindi potrebbe essere anche una cosa allettante iniziare a parlare anche di archeologia cinematografica. Benissimo. Patrizia, un abbraccio e alla prossima. Grazie Federico, anche a te, anche a voi, un buon pomeriggio a tutti. Grazie, ciao. Patrizia Salvatori del Cineclub Alfaville qui a Roma per parlare della rassegna di Tutto un Pop, appunti di cinema contemporaneo doc, che ha preso il via ieri, andrà avanti fino al 12 ottobre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook di Visionari. Il contatto invece per la posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E ritroviamo Guido Lombardi, questa volta come regista del film Take Five, che è in uscita in sala oggi, giovedì 2 ottobre. Guido, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buonasera. Allora, un noir partenopeo, di cosa si tratta, Guido? Ma è la storia di una rapina in banca. 5 un po' scaltagnati rapinatori che si mettono insieme per il colpo della vita, e a un certo punto c'è qualcosa che va storto, e si può dire che da un inizio alla solita ignoti, un po' alla volta, viene fuori il loro vero carattere e si trasformano più in cani da rapina, in iene. E tutto questo ovviamente condito con parecchia ironia e umorismo nero. Senti Guido, nel cast anche ex detenuti, o sbaglio? Sì, diciamo che 3 su 5 hanno, c'è una scena all'inizio film in cui loro si incontrano per la prima volta e stanno sotto la doccia e si fanno appunto il calcolo di quanti anni hanno trascorso in galera. Nella finzione sono 30. Nella realtà, se non sbaglio, dai calcoli che ci siamo fatti arrivavano a 28. Questo però non significa che non abbiano in qualche modo interpretato dei veri e propri ruoli. Sì. Sono proprio fan della loro performance in questo film. Sono stati molto bravi, secondo me. Senti, come li cito a questo punto, se permettono, sì, come no, certo. Beppe Lanzetta, che ovviamente è scrittore, attore di teatro, niente a che vedere, diciamo, con un passato criminale. Salvatore Striano, che aveva interpretato Bruto in Cesare deve morire dei Taviani. Carmine Paternoster, che era in Gomorra. Salvatore Ruocco, che era in varie cose di Abel Ferrara. E Gaetano Di Vaio, che è anche uno dei produttori del film. Sì. Come nasce tutto, Guido? La storia nasce praticamente un pomeriggio che io e Gaetano Di Vaio, appunto, stavamo scrivendo questa biografia romanzata sua, a quattro mani, per Einaudi, che è poi uscita, si chiama Non ne avrete mai, proprio perché Gaetano ha un passato abbastanza burrascoso, ha fatto circa una decina di anni di caccia. A un certo punto ci siamo fermati, ci siamo detti qual è il film, noi siamo una produzione molto indipendente, ci siamo detti qual è il film che potremmo realizzare con le poche risorse finanziarie che abbiamo a disposizione. Non so perché subito ci è venuta in mente l'idea di una rapina, e se un attimo dopo poi gli attori che potevano interpretare. Quindi io ho scritto la storia pensando proprio a loro, cioè, come dire, su di loro, su tutti i cinque attori che ho nominato. Senti, questa scelta del titolo inglese, Take Five? Ci sono vari motivi. In primis, il fatto che questa storia originariamente era stata immaginata per la regia di Abel Ferrara, quindi mi sembrava che un titolo in inglese non ci stesse male. E poi, vabbè, ci sono delle motivazioni che hanno a che vedere con la storia. Take Five è un pezzo jazz molto famoso degli anni 70, caratterizzato da un ritmo irregolare. Il fatto che in qualche modo richiamasse, diciamo, il carattere irregolare di questi miei personaggi mi affascinava, mi sembrava coerente. E poi c'è un'altra motivazione ulteriore, il fatto che Take Five Minutes, che poi è la vera espressione idiomatica, era appunto un'espressione utilizzata dai musicisti jazz degli anni 30 per indicare prendiamoci 5 minuti di pausa, andiamoci a fumare una sigaretta. E appunto c'è un personaggio nell'arco di tutto il film che talmente, insomma, sono le cose che succedono, i guai che passa, come diciamo noi a Napoli, che non trova mai il tempo di fumarsi questa sigaretta benedetta, o maledetta che si vuole. Senti, Guido, una città per lo più notturna, che immagine hai voluto dare di appunto della città, e che rapporto hai con la città? Ma una città, oltre che notturna, anche sotterranea, nel senso che alcune scene del film le abbiamo ambientate appunto in questa città misteriosa che è la Napoli sotterranea, esiste, fatta di cavità, di funicoli, di gallerie, di acquedotti che si collegano ad altri acquedotti di epoca diversa. Abbiamo scoperto veramente un mondo sotto Napoli, cercando appunto le location. L'immagine di Napoli in qualche modo ricorda il racconto che ne è stato fatto negli ultimi film, però non in maniera così realistica. Mi viene in mente Gomorra, L'Intervallo, tutti i film, diciamo, che apprezzo per il loro racconto realistico. Qui, insomma, ci siamo voluti prendere il lusso di metterci un po' più di fantasia nel racconto anche della criminalità organizzata o disorganizzata dei cittadini. Senti, un ruolo importante è anche quello della musica. Moltissimo. C'è molta musica, è stato complicato, diciamo, trovare il tono giusto, proprio perché è un mix di tanti generi, dalla commedia al noir al gangster movie. La quadra del cerchio l'abbiamo trovata con il musicista Giordano Corapi, nel momento in cui abbiamo associato a ognuno dei nostri personaggi, ai cinque personaggi, uno strumento diverso. E in questo modo, in qualche modo, era coerente questa cosa anche con l'idea originaria, cioè cinque solisti che ogni tanto improvvisano la loro parte. Era nella mia idea, diciamo, drammaturgica. L'abbiamo riportata anche nella musica e secondo me funziona bene questa cosa. Da oggi nelle sale, in quante copie esce, Guido? Esce in una trentina di copie, la stragrande maggioranza in Campania, un paio a Roma. E se le cose speriamo dovessero andare bene, può essere, riusciamo a esportarlo oltre, diciamo. nel resto d'Italia. Benissimo. Senti, informazioni in internet, c'è un sito di riferimento? C'è una pagina Facebook che ha il film e credo un blog che risale ai tempi della lavorazione del film. Saremo aggiornati sulle nostre varie peripezie. È stato comunque un film low budget, quindi è stato molto faticoso realizzare. Eh sì, immagino. Guido, è stato un piacere e ti saluto, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti quanti. Ciao ciao. Ciao. Guido Lombardi, regista del film Take Five, in uscita in sala oggi, giovedì 2 ottobre. E ritroviamo Sabina Guzzanti, regista del film La Trattativa, in sala in uscita in sala oggi, giovedì 2 ottobre. Sabina, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ben ritrovati voi. Come va? Bene, tu? Bene, grazie. Basta con i convenevoli che avevo già stancato. E quindi sì, oggi esce il film, per favore andatelo a vedere, questo è un po' il succo di questo programma, da parte del programma. Senti, La Trattativa, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Beh, è una storia molto intricata. Mi racconterei che si tratta di una pagina della nostra storia che ci ha massacrato e che ci sta ancora massacrando, che nessuno conosce, nessuno ha mai messo in fila, e che quindi è un film che, se uno lo va a vedere, capisce finalmente delle cose che non aveva mai capito, perché non sono mai state raccontate in una forma narrativa. Quindi è, diciamo, utile, appassionante, anche divertente. E soprattutto ci fa diventare consapevoli di questioni che sono veramente radicate nel nostro paese. È inutile che continuiamo a pensare a un possibile cambiamento se non siamo consapevoli di come sono strutturate, di chi c'è nelle nostre istituzioni e che tipo di formazione politica ha. Sabina, l'espediente che dà l'avvio a tutta l'operazione è quella di un collettivo di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che decide insieme di mettere in scena l'argomento, insomma, in questione. Ecco, volevo chiederti se per questo hai avuto dei riferimenti estetici e narrativi. Sì, come ho già detto, mi sono ispirata a un cortometraggio di Elio Petri in cui si raccontava si mettevano in scena le versioni ufficiali della polizia sulla morte di Pinelli. Sì. E c'era Gian Maria Volonté che appunto diceva: siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo e vogliamo utilizzare, e quindi, diciamo, ho citato testualmente quella scena, quel cortometraggio, perché appunto per una serie di ragioni importanti, cioè anche per chiarire il punto di vista di chi racconta questa storia. Cioè non è una storia raccontata dal punto di vista giudiziario né giornalistico, siamo appunto lavoratori dello spettacolo, quindi cittadini qualunque, volendo anche le ultime ruote del carro, diciamo persone normali, che si mettono a disposizione utilizzando i loro strumenti, che sono appunto quelli di riuscire a trasmettere dei significati, delle emozioni, per far capire una cosa importante. E quindi questo è il senso del film. Lavoratori e lavoratrici dello spettacolo che comunque negli ultimi tempi sono nuovamente tornati protagonisti della società civile, se pensiamo ad esempio agli spazi come teatri e cinema abbandonati. Sì, le occupazioni, ogni tanto diciamo che ci sono dei rigurgiti di impegno, però comunque io non è che sono pessimista. Penso che vada fatta una riflessione infinitamente più profonda di quella che siamo abituati a fare, cioè che siamo ancora proprio molto lontani dall'elaborare intanto un'analisi, sì, della realtà, perché a mio parere non ci siamo, insomma, non abbiamo ancora capito bene come funziona come funzionano i meccanismi che vorremmo cambiare. Abbiamo ancora, secondo me, idee un po' confuse su questo e non abbiamo sicuramente, non essendoci un'analisi ancora precisa, elaborato una modalità di controcondotta, diciamo, rispetto a questi, a quello che vorremmo cambiare. Tornando invece alla trattativa, prende in analisi un momento cruciale della storia di questo paese dal dopoguerra ad oggi, che è quella della stagione delle stragi di mafia, gli inizi degli anni 90. Esatto, sì. Sì, appunto, è un momento cruciale perché? Perché quello era un momento in cui l'Italia poteva cambiare, stava cambiando, era finita la guerra fredda, quindi non c'erano più le pressioni esterne che come sappiamo foraggiavano tutti quanti i gruppi eversivi, Gladio, compresa Cosa Nostra. La corruzione sembrava che stesse per finire perché c'erano gli scandali di Tangentopoli e l'opinione pubblica era molto determinata a uscire da questo sistema corrotto. I partiti tradizionali erano quasi stati, erano scomparsi, era rimasto soltanto il partito comunista che sembrava fosse, dovesse governare per mancanza di avversari, e quindi c'era Falcone che stava facendo, insomma, stava mettendo in ginocchio Cosa Nostra e stava mettendo in mani anche sui complici nell'imprenditoria e nella, perché non ci dimentichiamo che appunto la mafia ce la raccontano sempre molto male. La mafia non è un gruppo criminale per cui si può magari anche avere simpatia se uno guarda i film di Coppola. La mafia significa collusioni con gli imprenditori, con la politica, perché i principali entrate di questi crimini sono i soldi pubblici, alla fine gli appalti pubblici. Quindi tutto questo stava per cambiare, le stragi impongono una direzione imprevista ed opposta. Da quel momento non solo nasce una destra molto forte con delle caratteristiche che non si erano mai viste in questo paese, ma non c'è più un'opposizione, che secondo me è la vera differenza tra il tributo e le stragi. Cioè, questo è stato sempre un paese corrotto, è stato sempre un paese in cui c'è stata una grande presenza di nostalgici del fascismo, di forze antidemocratiche, però in compenso c'erano anche delle forze democratiche molto forti, c'era una vivacità politica, intellettuale e una seria e organizzata forza di cambiamento. Dopo le stragi è questo che scompare, cioè entrambi i partiti assumono lo stesso progetto politico ed ora ci ritroviamo con Renzi, che appunto è la conclusione di questo percorso, cioè uno che è sia di destra che di sinistra contemporaneamente, ma non è, insomma, di sinistra non ha più nulla, ma non è che non ha più nulla di sinistra, cioè finisce ogni idea di possibile cambiamento in una direzione democratica, egualitaria. Senti, una stagione che è ancora, i cui sviluppi, i cui effetti sono ancora in divenire. Il partito di riferimento che allora segnò la svolta per Cosa Nostra in quanto appunto di riferimento è ancora un elemento decisivo, insomma, nella politica di questo paese, e per esempio il Presidente della Repubblica, è notizia di questi giorni, sarà ascoltato dai giudici nei prossimi giorni. Sì. Beh, in questi giorni ci sono moltissime novità, anche più importanti della testimonianza di Napolitano, che per quello che posso capire io, che comunque continuo a non essere un'esperta, ha un valore più simbolico che sostanziale. Ad ogni modo è giusto che testimoni, perché appunto la lettera di D'Ambrosio, dove scrive che ha il sospetto di essere stato usato per indicibili accordi, è molto esplicita e sicuramente va approfondita. Detto questo, stanno venendo fuori anche cose più gravi, cioè i servizi segreti che sono stati liberi di entrare nelle carceri, dare dei soldi ai mafiosi, utilizzarli per i loro fini senza avvisare la magistratura, quindi sempre per scopi eversivi, ricattarli. Mentono alla commissione, certamente, in mente la commissione antimafia al Parlamento, la scoperta che Mori era legato alla P2, che faceva parte del gruppo legato a Miceli, che era stato coinvolto nel tentativo di colpo di Stato del 74, poi assolto, per carità, sono sempre tutti quanti assolti, però voglio dire la certezza che quelle stesse persone che sono sospettate di avere trattato hanno anche un background politico di tipo eversivo, eversivo pesante, appunto golpisti e piduisti. Oh, uno dei loghi che avete utilizzato per la pubblicità del film è "chi tratta vince", mi sembra molto intrigante. Tratta e vinci. No, tratta e vinci è un giochino che poi è nato sul mio blog quando chiedevo consigli per il titolo del film, e uno di questi titoli era il tratta e vinci, che effettivamente quelli che trattano vincono, ma insomma trattare non è la parola giusta, ma è una cosa che si usa per vincere, sì, un biglietto al cinema, praticamente una specie di gratta e vinci, insomma, se trovi tre carabinieri uguali o tre mafiosi o tre ministri, vinci un biglietto. Fai triste. Senti, da oggi nelle sale in quante copie esce la trattativa? Dunque in 157 copie. Beh, considerevole. Ben distribuito, considerevole, sì. E davvero pregherei chi ci ascolta di andarlo a vedere, perché è il frutto di una fatica immensa, e se il pubblico lo va a vedere chiaramente diventa un segnale di approvazione e di desiderio di sapere. Se invece poi la gente non ci va, viene preso come un segnale opposto, cioè che non, agli italiani non gli importa niente di questa roba, e quindi diciamo che scoraggia tutti quelli che invece pensano che sia importante. Senti, dicevi di un gioco nato online, quello Tratta e Vinci, volevo chiederti allora se il film ha anche una sua vita internettiana. Vabbè, praticamente il canale principale di promozione del film è sicuramente internet, perché appunto in televisione non si sa perché non mi invitano tanto, cioè mi ha invitato Santoro per carità, che ovviamente per la trattativa. Mi ha invitato l'Annunziata, che è l'unico programma della RAI che mi ha invitato, tutti gli altri si sono rifiutati, benché la trattativa sia sulle prime pagine ormai da 15 giorni, quindi non è che non c'è un problema di attualità. Ci sono 45 talk show, non ce n'è uno fino adesso che se ne sia occupato. Vabbè, sarà un segno. Sabina, un abbraccio, ricordiamolo, la trattativa è in uscita in sala oggi giovedì 2 ottobre, ci sentiamo alla prossima. Yes, alla prossima, un grande abbraccio. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Sabina Guzzanti, regista del film La Trattativa. Un appuntamento imperdibile ogni anno, Livio Jacob, presidente della 33esima edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 4 all'11 ottobre. Livio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi, ben ritrovati anche voi. Allora, chiamiamo le cose per nome, il cinema muto, quali sono, insomma, come nasce, quali sono le caratteristiche di questo festival? Beh, nasce ormai 33 anni fa perché c'era l'esigenza di far conoscere una bella fetta di cinema del passato, in particolare i primi 30 anni, quindi questa è la motivazione così originale, dopodiché se ne sono venute così insomma man mano aggiungendo delle altre, ma soprattutto c'era proprio l'idea nei primi anni 80 di far vedere dei film realizzati all'epoca in cui il cinema non parlava ancora e magari si esprimeva diversamente, insomma, però cioè attraverso le didascalie e la musica, però con la necessità di far conoscere questi film a un pubblico nuovo, far circolare materiali nuovi, far circolare i nuovi restauri e così via. Quindi questa era un po' la motivazione originale. Dopodiché le motivazioni sono diventate molte di più, insomma, anche di più di quelle che noi in un primo tempo pensavamo di poter comunque affrontare ed avere, insomma, in questi primi anni, nei primi anni '80, ecco, sì, sì, sì, sì. Livio, quante opere presenterete quest'anno e poi che segno avete dato a questa edizione? Beh, allora, opere tante, cioè svariate decine, un centinaio, insomma, fra corti, lunghi, cortissimi e lunghissimi. Però il segno direi che è quello del colore, perché succede che il cinema muto viene, come dire, insomma, trascurato, anche perché in generale è abbinato alla mancanza di colore. Invece noi dimostriamo con una storia molto avventurosa, che è quella del cinema e del Technicolor, che nasce proprio 100 anni fa, nel 1915, che il cinema è nato proprio a colori, oppure con colori, insomma, molto molto, oltretutto molto belli. I fotogrammi di quegli anni, dei film di quegli anni, sembrano dipinti, insomma, rinascimentali. E quindi, insomma, praticamente c'è la necessità, così, insomma, a livello di fare un ragionamento, insomma, a ritroso sulla nascita e sui primi anni della colorazione a mano, della colorazione meccanica e soprattutto, appunto, del Technicolor. Un po' quella è forse questo è il filo conduttore di quest'anno. Una caratteristica qualificante della vostra rassegna è quella della musicazione dal vivo. Certo, perché ogni anno abbiamo una serie di musicisti che ci accompagnano nelle proiezioni, vale a dire, fai conto, ci sono 9 pianisti stabili che fanno, insomma, del loro meglio per far sì che, insomma, i film muti rivivano bene per le generazioni, insomma, di oggi, per i giovani e così via. Però c'è un'orchestra che accompagna un film muto, un classico, un super classico, vale a dire Luci della città, e l'orchestra è quella San Marco di Pordenone, un'orchestra locale molto molto qualificata, che riporterà, insomma, alla luce un film forse già visto, già conosciuto, però vederlo con le musiche d'epoca in una copia restaurata, insomma, fa veramente la differenza. Alla luce della vostra lunga storia, Livio, volevo chiederti qual è lo stato del cinema muto a livello di restauro e fruizione. Beh, direi che rispetto a quando siamo nati noi, in cui, insomma, eravamo veramente frustrati dal fatto che facevamo questo festival, però poi le copie che proiettavamo per il nostro pubblico ritornavano nei paesi d'origine, nelle cineteche d'origine, negli archivi così spesso molto lontani da Pordenone. Col passare degli anni, invece, specialmente in questi ultimi anni, il fatto che ci sia la trasformazione, insomma, dalla pellicola alla proiezione digitale, fa sì che tutto questo rende più facile la fruizione, nel senso che le copie digitali possono essere proiettate con molta più facilità rispetto alle copie d'epoca in pellicola. Sì. E quindi direi che dal punto di vista della fruizione le cose sono sicuramente migliorate, ma non solo questo, direi anche che la qualità migliore dei restauri rispetto agli anni passati si aggiunge a questa fruizione. Quindi, insomma, direi il digitale ha dato una mano alla divulgazione del cinema muto e sicuramente ne darà ancora di più nel futuro. Benissimo. Diamo i riferimenti internet per la programmazione delle giornate? Sì, allora www.cinetecadelfriuli.org, oppure digitando giornate del cinema muto, insomma, su Google, oppure in altri formati, insomma, basta dire Pordenone Silent Film Festival per l'estero e si arriva in vari modi, si arriva al catalogo e al programma di quest'anno. Benissimo, Livio, un abbraccio, un in bocca al lupo come sempre, a risentirci presto. E grazie a voi. Ciao. Livio Jacob, presidente della 33ª edizione delle giornate del cinema muto a Pordenone dal 4 all'11 ottobre. Allora, riusciamo a fare anche un ultimo collegamento? Ci tenevo con Andrea Segre. Intanto ben ritrovato, Andrea. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Per parlare con te del lavoro Come il peso dell'acqua, questo è il titolo, sarà programmato su Rai 3 domani 3 ottobre. Di cosa si tratta, Andrea? Ma è un esperimento speciale che mi ha proposto la Rai 3, in cui ho coinvolto Stefano Liberti, Marco Paolini e Giuseppe Battiston, prodotto da Ruvido, ed è in occasione dell'anniversario tragico della tragedia di Lampedusa, è un modo per cercare di andare oltre la commemorazione, no? Perché siamo sempre bravi a fare le cerimonie per provare a cancellare le vere memorie, e questo è un lavoro che invece prova a spostare l'asse verso la vera memoria, cioè verso la ricostruzione di 10 anni di rapporto con i viaggi e di storie dei viaggi, affidando la prima persona a tre viaggiatori, anzi viaggiatrici, a tre madri, Nasrin dalla Siria, Gladys dal Ghana e Semar dall'Eritrea, che hanno viaggiato negli ultimi 10 anni in tre momenti diversi e che in prima persona raccontano, e per la prima volta in prima serata su Rai 3 raccontano non solo cosa significa viaggiare, ma soprattutto che cosa significa nella vita di una persona trovarsi dalla parte sbagliata del mondo, cioè da quella parte in cui non ti è dato il permesso e il diritto di viaggiare, neanche di fuggire. È un racconto che attraverso anche l'arte di narrazione di Marco e di Giuseppe, di Marco Paolini e Giuseppe Battiston, cerca di spostare l'asse dalla pietà e dalla compassione alla dignità e alla comprensione. Volevo chiederti, Andrea, rispetto a questi 10 anni, cosa è cambiato e come si è trasformata l'accoglienza di questo paese, al di là della cronaca nera con i naufragi o con la cronaca, appunto, che viene dai centri di identificazione ed espulsione? Ma i cambiamenti sono tanti. Adesso il cambiamento più evidente è che in questo momento, diciamo da un anno a questa parte, abbiamo deciso che era necessario cercare di provare a ridurre le vittime. Ci siamo riusciti fino a un certo punto, perché almeno 3.000 sono le persone che sono morte nell'ultimo anno nell'attraversamento. Però l'abbiamo fatto sempre in un contesto un po' di soluzione superficiale e marginale, perché quello che fa Mare Nostrum oggi, ed è quello che la storia di Nasrin in particolare nel film racconta, e quello che Giuseppe spiega nella parte teatrale del film, Mare Nostrum è un'operazione che cerca di andare a coprire un errore di strategia. Cioè noi per anni, noi intendo non l'Italia, l'Europa, ha deciso che la risposta era tentare di fermare, bloccare e impedire. Quando blocchi e impedisci dei desideri e delle esigenze irreversibili, quello che crei è il rischio della vita delle persone da una parte, e il business di chi sfrutta questo rischio. Quando questa cosa è diventata così grande da produrre non solo il rischio, ma le conseguenze di quel rischio, cioè la morte di migliaia di persone e la crescita enorme del business, allora ci siamo inventati che dovevamo andare a salvare. Ma è evidentemente una specie di escusatio non petita, cioè anzi forse petita, e andare a chiedere scusa per aver fatto un errore per tanti anni, ma non cambiare quell'errore. Mm-hmm. E questo è quello che proviamo anche a capire e a raccontare in Come il peso dell'acqua. Ecco, proprio a proposito di questo lavoro, hai detto delle tre donne protagoniste in tempi e in luoghi diversi di viaggi verso l'Italia, di un contributo teatrale, e considerate anche le persone, gli artisti che hai coinvolto in questo progetto, volevo chiederti com'è strutturata l'opera. È il racconto è quello di una persona, Giuseppe Battiston, che è un italiano medio, una persona che può essere tanti di noi, che si chiede quello che non ha capito, e partendo dal beneficio del dubbio cerca di comprendere attraverso i racconti diretti delle persone, delle tre donne, e delle mappe, delle carte che Marco Paolini, trasformato in cartografo, disegna. Quindi è un percorso dentro ad una situazione teatrale che poi diventa anche un po' cinematografica, è intervallata testimonianze dirette di queste tre donne, che costituiscono un po' la fonte di informazione che permette a Beppe di capirci qualcosa in più. Mm-hmm. E tutto questo in una puntata unica di circa un'ora e mezza, un po' di più, un'ora e quaranta, e che andrà in onda appunto domani sera su Rai 3, e che però per il pubblico romano può essere vista in anteprima questa sera in un luogo molto importante per la storia e interessante per cercare di capire di più, cioè nel palazzo occupato dai rifugiati eritrei in via Curtatone numero 3, che è vicinissimo a Termini, che è una delle occupazioni appunto in cui i rifugiati eritrei cercano di trovare dimora in un paese che li ha obbligati ad avere protezione umanitaria qua, ma senza poi dargli altro. L'appuntamento è questa sera alle 8:30 in via Curtatone 3 per vedere l'anteprima della trasmissione di domani. Peraltro questa sera lo si potrà vedere nella versione che io preferisco, cioè quella con i sottotitoli, sentendo le voci vere delle persone, perché purtroppo, come sappiamo, poi in Rai invece preferiscono il voice over in italiano. Allora, hai detto dell'appuntamento di questa sera, della programmazione di domani su Rai 3, e volevo chiederti anche che altro tipo di fruizione avete pensato per questo lavoro. È un lavoro che volutamente ha una scelta di orizzonte pedagogico, anche nel senso brechtiano del termine, cioè il bisogno di avere e condividere conoscenza. Per questo abbiamo chiesto alla rete di poter continuare la distribuzione di questo lavoro, di non fermarsi alla messa in onda, all'anteprima speciale di questa sera e alla messa in onda, ma di poterlo continuare a diffondere, e sarà Zalab, come anche negli altri miei documentari, a seguire la distribuzione. Quindi per chi non riuscisse a vederlo, per chi vedendolo sente il bisogno e la voglia di portarlo in scuole, università, teatri, festival, cinema, può contattare Zalab. L'indirizzo è sempre distribuzione@zalab.org. Andrea, un abbraccio e alla prossima. Grazie, ciao, buona giornata. Andrea Segre, per quanto riguarda il documentario Come il peso dell'acqua, programmato su Rai 3 domani e venerdì 3 ottobre. Per visionari è tutto, l'appuntamento resta il giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.